Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buon anno e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Doc. Vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sullo straordinario fenomeno naturale delle stelle e comete. Ai confini dello spazio, a metà strada dalla stella più vicina, c'è una grande nube di detriti. Ammassi di roccia e ghiaccio che vagano ai limiti del nostro sistema solare da oltre 4 miliardi di anni. Sono tra gli oggetti più misteriosi dell'universo. A volte vengono scagliati nel cuore del nostro sistema, dove diventano le stelle splendenti che chiamiamo comete. La storia che stiamo per raccontarvi vi svelerà molti dei segreti dell'universo e di come è nata la vita sulla Terra. Come racconta Patrick McCafferty della Queen's University di Belfast, per secoli i nostri antenati hanno avuto un timore reverenziale verso le comete, credendole messaggere degli dèi, portatrici di vita e di morte. Si può affermare che le comete sono presenti in tutti i miti del mondo. Infatti, quasi ogni popolazione della Terra parla di draghi, oggetti di pietra e ferro che cadono dal cielo, maghi e giganti con un occhio solo in fronte. Tutto ciò è riconducibile alle comete. Che si creda o meno a queste interpretazioni, non c'è dubbio che le comete sono state oggetto di una forte superstizione. In tempi in cui il movimento delle stelle e dei pianeti era usato per predire il futuro, l'improvvisa comparsa di qualcosa di inusuale era un pericoloso presagio. Professor Simon Schaffer, della Cambridge University. I filosofi e gli astronomi medievali pensavano che tutto ciò che si trovava oltre la Luna fosse perfetto. Al di là di essa, tutto rimaneva immobile. Ma le comete non si comportano affatto così. Le comete appaiono come segni infuocati che attraversano il cielo. Le comete rappresentavano una minaccia all'idea di un universo perfetto, calmo e ordinato. Si ipotizzava che fossero inviate da Dio, il cui intento sarebbe stato quello di mandare un segnale all'intera umanità. Quando appariva una cometa, gli astrologi quasi automaticamente predicevano grandi cambiamenti, la morte di un re, guerre, invasioni. Per secoli, tutte le spiegazioni sulle comete si sono basate sulla superstizione e l'astrologia. Ci vorrà una delle più grandi menti della storia perché si abbia una spiegazione in termini scientifici. Nel 1680, una cometa particolarmente luminosa cattura l'attenzione di Isaac Newton. Si tratta di un evento che finirà per cambiare la nostra comprensione dell'universo. Ancora il professor Simon Schaffer. Il 19 novembre, alle 4:30 del mattino, a Cambridge, la cometa è stata avvistata da un giovane. Lo stesso giorno, alle 5 del mattino, la cometa è stata avvistata anche a Boston, nel New England. La cosa straordinaria di questa cometa è che, essendo molto luminosa, si poteva vedere anche di giorno. Rimase visibile per tutto l'ottobre e novembre del 1680 e poi scomparve dietro al sole. Poi, a dicembre, da dietro al sole, apparve un'altra cometa e rimase visibile fino al marzo del 1681. Perciò la domanda cruciale è: si tratta di una o due comete? Se è una sola cometa, allora si è inclinata molto vicino al Sole, sempre ammesso che fosse una. Newton capisce che se il Sole è riuscito a curvare la traiettoria della cometa così tanto, all'opera deve esserci stata una forza invisibile, che chiama gravità. Un'idea che non viene da una mela che cade da un albero, ma da una cometa che passa dietro al Sole. Fu cercando di risolvere questo rompicapo che Newton iniziò a formulare il concetto di gravitazione. Prima del 1681, infatti, non si aveva alcuna nozione della gravitazione universale. Fra il 1681 e il 1684, Newton iniziò a supporre che le comete tornassero indietro e che, come i pianeti, si spostassero in orbite chiuse. Capì che era possibile determinare la forma dell'orbita e predire quando sarebbero tornate. Ed è esattamente ciò che lui e il suo amico Edmund Halley si propongono di fare. Se riuscissero a usare la teoria della gravitazione per predire il ritorno di una cometa, non solo proverebbero la teoria di Newton, ma dimostrerebbero anche che le comete non sono presagi o segnali sovrannaturali, ma corpi orbitanti dalla traiettoria prevedibile, come i pianeti. Halley confronta le tabelle di tutte le osservazioni di comete che riesce a trovare, cercando similitudini nel loro comportamento, da quale direzione arrivano e quanto si avvicinano al Sole. Infine, individua tre comete la cui descrizione è quasi identica. La prima, registrata nel 1531, la seconda nel 1607 e l'ultima osservata da lui stesso nel 1682. Ogni apparizione ha una distanza di 75 anni dall'altra. Convinto che i tre avvistamenti riguardino la stessa cometa, Halley prevede pubblicamente che riapparirà alla fine del 1758 o all'inizio del 1759. Si tratta di un'affermazione scientifica estremamente ardita per l'epoca. Né Newton né Halley vivranno abbastanza da vedere avverate le loro previsioni, ma quando il giorno di Santo Stefano del 1758 viene avvistata una cometa in Germania, viene accolta come un trionfo della scienza sul sovrannaturale. Consultando i documenti storici, si nota che la cometa di Halley riappare sempre con perfetta regolarità. L'ultima volta che ha fatto la sua comparsa, nel 1986, è stata accolta come una vecchia amica. Sull'isola di La Palma, nelle Canarie, Alan Fitzsimmons sta cercando di svelare tutti i segreti delle comete. Qui abbiamo il telescopio William Herschel, un vero gioiello di precisione astronomica, sempre pronto ad avvistare qualche cometa. Può sembrare strano che si utilizzi un telescopio così potente per osservare le comete, gli oggetti più luminosi nel cielo notturno. Ma gli scienziati vogliono studiarne il nucleo e per farlo devono avvistarle prima che si formi la coda. Il nucleo è minuscolo, misura solo qualche chilometro e nella vastità dello spazio è incredibilmente difficile avvistarne uno. In media riflettono solo il 4% della luce che li colpisce, mentre un pezzo di carbone arriva a rifletterne l'8%. Quindi le sostanze che costituiscono il nucleo di una cometa sono due volte più scure del carbone. Cerchiamo di osservare questi oggetti sfruttando la poca luce solare che riflettono al di là di Giove. E non è un'impresa facile. I telescopi più potenti rilevano i nuclei cometari mentre si lasciano trasportare verso i pianeti più esterni. Ma le loro orbite suggeriscono che provengano da molto più lontano, da oltre il regno dei pianeti. Scoprire la loro esatta provenienza non è stato facile. A partire dagli anni 40, gli astronomi hanno iniziato a cercare una grande riserva di comete, detta fascia di Kuiper, che ritenevano si estendesse oltre Nettuno. Ma nessuno riusciva a trovarla. Nonostante le assidue ricerche, l'unico oggetto che si riuscisse a rilevare era quello che fino a poco tempo fa era considerato un pianeta, Plutone. Nel 1987, Dave Jewitt e Jane Liu si sono stabiliti presso il Mauna Kea Observatory alle Hawaii per osservare lo spazio interstellare. Per molti anni, però, le loro ricerche non hanno dato alcun risultato. Alla fine, la loro perseveranza li ha premiati. Dopo 5 anni e oltre 400 ore di osservazione, la loro attenzione è stata catturata da una piccola macchia anomala. Quello era il primo oggetto che avesse l'aspetto di un possibile candidato. Quello che infine viene scoperto dai due scienziati è il primo oggetto della fascia di Kuiper. Siamo ai confini estremi del Sistema Solare, a metà strada dalla stella più vicina, a una distanza 50.000 volte maggiore di quella fra Sole e Terra. Qui, miliardi di comete si aggrappano debolmente alla gravità del Sole. Si pensa che la nube di Oort si sia originata durante la violenta formazione del Sistema Solare. Man mano che si formavano e aumentava la loro gravità, i pianeti scagliavano detriti nello spazio, alcuni dei quali si sono accumulati nella nube di Oort, dove si trovano fin da allora. Ma studiare le comete non è facile. La nube di Oort è così distante e gli oggetti che si trovano in essa così piccoli che non saremmo mai in grado di vederli. Ma fortunatamente per gli astronomi, a volte accade qualcosa che li scaglia con violenza verso di noi. Alan Fitzsimmons, della Queen's University di Belfast. Gli oggetti della nube di Oort non diventano comete attraverso l'azione del Sole, ma attraverso quella di altre stelle. Il nostro Sole è solo una dei milioni di stelle che formano la galassia della Via Lattea, visibile in una notte limpida e senza luna. Le stelle si muovono tutte in direzioni e a velocità leggermente diverse, e a volte può capitare che in una di queste si avvicini alla nube di Oort abbastanza da turbare qualcuna di quelle comete. Alcune di esse vengono scagliate nello spazio interstellare, altre invece vengono spinte nel nostro sistema solare. Fino a non molto tempo fa si pensava che il nostro sistema solare fosse isolato dal resto dello spazio dalle grandi distanze che lo circondano. Ma è grazie al fatto di vedere le comete che ora sappiamo che quanto accade intorno alla Terra è causato dal movimento di stelle lontane. Viaggiano inosservate e silenziose attraverso lo spazio per decine o persino centinaia di migliaia di anni. Ma una volta superato Giove, a centinaia di milioni di chilometri di distanza, si accendono e iniziano a produrre la loro coda. Improvvisamente riusciamo a vederle. Sono state inviate varie missioni per studiare le comete da vicino. La sonda Deep Impact è stata mandata a raggiungere la cometa Temple 1 per testarne la resistenza e la densità schiantandosi contro di essa. La sonda Stardust ha raggiunto la cometa Wild 2 per raccogliere granelli di polvere della sua coda e riportarli a terra. Nel vuoto spaziale, il gas fuoriuscendo soffia via polvere dalla superficie della cometa e i detriti si accumulano a formare un grande alone, detto chioma. Il nucleo di una cometa può produrre una chioma di oltre 1 milione di chilometri di diametro, più grande del Sole. Si espanderebbe all'infinito se non fosse per la pressione di radiazione solare che plasma la chioma della cometa in due spettacolari code, una fatta di polveri, l'altra di particelle gassose. Ed è la ragione per cui, in qualunque direzione viaggi la cometa, le code sono sempre rivolte in senso contrario al Sole. Le code più lunghe possono misurare 500 milioni di chilometri ed estendersi per metà del Sistema Solare. È uno spettacolo straordinario, uno dei più belli che si possano ammirare nell'universo. Ma è anche il segno che dopo 4 miliardi di anni la cometa sta morendo. Ogni secondo perdono tonnellate di polvere e ghiaccio. Ogni volta che una cometa compie un giro attorno al Sole, il suo nucleo si rimpicciolisce. La maggior parte di esse ha energia sufficiente solo per 1 migliaio di rivoluzioni attorno al Sole. Persino una grande cometa come quella di Halley vivrà ancora solo 150.000 anni. Poi, quando la loro riserva di energia sarà esaurita, moriranno. Alcune scompaiono schiantandosi contro il Sole. Altre si disintegrano, finendo per diventare frammenti di polvere che a noi appaiono come stelle cadenti quando entrano nell'atmosfera. Ma non tutte si polverizzano. Alcune di esse lasciano vagare il loro pericoloso scheletro nello spazio. Le comete possono davvero rappresentare un pericolo per la Terra. Sebbene siano grandi, sono incredibilmente fragili, non più consistenti della cenere di una sigaretta. Ma alcuni sostengono che un pezzo di cometa relativamente piccolo potrebbe causare una catastrofe globale. Mike Bailey è un paleoecologo che ha trovato la prova di un disastro ecologico nei campi dell'Irlanda del Nord. Più di 20 anni fa, l'agricoltore che fece bonificare questo campo vide venire in superficie queste querce. Erano ricoperte di terra, così le tirò fuori con un'escavatrice e le accatastò tutte insieme. In un'area pianeggiante come questa è un utile frangivento per gli animali che cercano riparo, così sono state lasciate qui. Il che significa che abbiamo a disposizione degli alberi antichi. Alcune di queste querce hanno migliaia di anni e nelle condizioni senza ossigeno delle torbiere irlandesi si sono conservate perfettamente. Raccogliendo campioni di decine di migliaia di alberi, il professor Bailey ha realizzato una cronaca annuale dell'ambiente irlandese degli ultimi 7500 anni. Ciò che ha scoperto esaminando gli anelli di crescita è che alcuni alberi hanno smesso misteriosamente di crescere. Questo albero ha avuto un lungo periodo di crescita perfettamente normale, ma quando arriviamo all'anno 540 appaiono i segni di un danneggiamento e da allora la natura della sua crescita è cambiata drasticamente. Quando le stesse condizioni sono emerse in molti altri alberi, il fatto è stato subito liquidato come l'effetto di una forte tempesta che colpì l'Irlanda nel 540. Professor Mike Bailey, della Queen's University di Belfast. Ma quando abbiamo scoperto che lo stesso evento si era verificato contemporaneamente dalla Mongolia alla Siberia, dal nord della Svezia a tutta l'Europa del nord, dal nord al Sud America, abbiamo cambiato idea e abbiamo capito che si trattava di un evento globale. Quella era la prova che nel 540 d.C. era avvenuta una catastrofe di dimensioni globali. Ma cosa poteva aver causato un così grande disastro? C'era un ovvio sospetto. Le più grandi eruzioni vulcaniche scagliano così tanta cenere negli strati più alti dell'atmosfera che si diffonde su tutto il pianeta, bloccando i raggi solari. L'eruzione del Pinatubo nel 1991 ha fatto sì che le temperature globali scendessero di oltre mezzo grado per i successivi due anni. È lo stesso modello riscontrato nell'evento del 540. Ma le eruzioni vulcaniche lasciano anche un'altra traccia, uno strato di acido solforico che si ritrova nelle coltri glaciali della Groenlandia. Ma i campioni presi dagli strati di ghiaccio corrispondenti all'anno in questione non mostrano alcun picco di acido solforico. Qualunque cosa abbia impedito agli alberi di continuare a crescere, non è stato un vulcano. Professor Mark Bailey, Armagh Observatory. Se si verifica un disastro ambientale di proporzioni globali e non è causato da un vulcano, qual è l'altra causa più probabile? Si può ipotizzare che si sia trattato della caduta di un oggetto proveniente dallo spazio? E nell'attimo stesso in cui ti fai questa domanda, ti rendi conto che il tipo di evento più probabile di cui si potrebbe parlare è la caduta di una cometa. In teoria, un frammento di cometa di 300 metri di diametro potrebbe avere conseguenze sul clima globale. Raggiungendo l'atmosfera a una velocità di oltre 20.000 km l'ora, prenderebbe fuoco all'improvviso e andrebbe in mille pezzi, chilometri prima di toccare terra, diffondendo una coltre di polvere su tutto il pianeta che finirebbe per bloccare i raggi del sole. Si tratta di un evento detto esplosione in aria. Il 30 giugno del 1908, una grande esplosione devasta le foreste di Tunguska, in Siberia. Nessuno assiste all'esplosione. Ma l'evento fa sollevare nubi di polvere che riflettono così tanta luce da essere visibili persino da Londra. Ancora Mark Bailey. Pare che il cielo fosse così luminoso che a mezzanotte si poteva giocare a cricket o leggere il giornale. Ciò può darvi un'idea di quanta polvere si fosse sollevata raggiungendo gli strati alti dell'atmosfera e da lì riusciva a illuminare un luogo così lontano dalla zona dell'impatto come Londra. Ci vogliono 20 anni prima che i russi organizzino una spedizione sul sito. Ciò che trovano li lascia sbalorditi. 60 milioni di alberi in un'area delle dimensioni di Londra sono stati rasi al suolo. Sconcertati, gli scienziati russi realizzano una serie di esperimenti per cercare di capire cosa possa aver provocato una tale devastazione. L'unica spiegazione possibile è che l'esplosione sia stata causata da un oggetto extraterrestre del diametro di 60 metri entrato nell'atmosfera superiore. In questo caso si è trattato solo di una piccola esplosione che ci mostra però l'entità del danno che può provocare. Tutta quell'energia cinetica si trasforma in calore. È come se nell'atmosfera terrestre esplodesse un'arma nucleare. Si possono solo immaginare gli effetti di un'esplosione in aria che si verificasse sopra una zona abitata. Se questa è la devastazione che le comete possono causare, forse i nostri antenati avevano delle buone ragioni per temerle. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi riguardo al potere distruttivo delle comete, un evento del 1994 gli farebbe cambiare idea. È accaduto a una distanza di 643 milioni di chilometri, ma nel sistema solare è come dire nel giardino di casa. La cometa Shoemaker-Levy 9 viene scoperta nel 1993. A causa della forza di gravità esercitata da Giove, si frantuma in 21 pezzi, creando una scia di detriti in rotta di collisione con il grande pianeta. È un evento astronomico unico nel suo genere. Nessuno ha mai visto due oggetti del sistema solare entrare in collisione. E mentre gli scienziati pianificano le loro osservazioni, nasce per le comete un interesse decisamente meno razionale. Burley Payne, The Triangle Group. Al momento dell'impatto vedremo mutare il campo magnetico delle persone. Alcuni si sentiranno eccitati, altri più depressi. Non possiamo saperlo. I frammenti della cometa hanno un diametro di qualche chilometro e nessuno sa quali effetti avranno su un pianeta così grande. Mentre questi si avvicinano, gli astronomi di tutto il mondo osservano le immagini con il fiato sospeso. La portata delle esplosioni sorprende tutti. Quando la cometa ha colpito l'atmosfera di Giove, dalla superficie del pianeta si sono sollevate palle di fuoco che hanno raggiunto un'altezza di 3.000 km. L'impatto più forte ha sprigionato un'energia 600 volte maggiore di quella dell'intero arsenale nucleare mondiale. Segni di dimensioni più grandi della Terra sono stati lasciati sulla superficie di Giove. Si è trattato delle più grandi esplosioni mai documentate. Forse, ripensandoci, quello non era affatto il momento di festeggiare. La collisione con Giove ha mostrato quale enorme potenza avrebbe potuto sprigionare l'impatto di una cometa intera. Immaginate se avesse colpito la Terra. Non si tratta di una mera fantasia. Impatti di questa portata si sono già verificati sulla Terra, l'ultimo 65 milioni di anni fa. Ha causato l'estinzione dei dinosauri e spazzato via dal pianeta la metà delle altre specie viventi. Ormai consapevoli del pericolo, abbiamo creato progetti di esplorazione spaziale per la ricerca di oggetti che siano una minaccia per la Terra. Ma la maggior parte di essi si concentra sul rilevamento di asteroidi. A differenza delle comete, che si originano nello spazio cosmico, la maggior parte degli asteroidi proviene dalla fascia compresa fra Marte e Giove, da dove vengono periodicamente deviati in un'orbita che interseca quella terrestre. Ma questi asteroidi solitari sono facili da avvistare e le loro traiettorie possono essere previste con centinaia d'anni di anticipo. Questo dà agli scienziati tempo sufficiente per escogitare il modo di deviarne la rotta affinché non ci colpiscano. Ma sfortunatamente, evitare l'arrivo di una cometa è una questione del tutto diversa. Dottor Simon Green, Open University. Gli impatti di comete sono molto più rari di quelli di asteroidi, ma sono molto più difficili da prevenire. Le comete, infatti, arrivano dallo spazio cosmico e si può avere un preavviso di solo qualche anno o, peggio ancora, di pochi mesi. Potrebbe non esserci tempo sufficiente per provare a deviarne l'orbita. È una prospettiva spaventosa. Si stima che la Terra potrebbe subire un impatto come quello di Tunguska, in grado di distruggere una città, una volta ogni 1.000 anni. E un evento come quello che ha portato all'estinzione dei dinosauri, una volta ogni 100 milioni di anni. Invece di avere paura delle comete, forse dovremmo essere grati della loro esistenza. Potrebbero essere la ragione per la quale stiamo sulla Terra. Molto tempo fa, all'inizio del Sistema Solare, i pianeti si sono formati a partire dal disco di polvere e gas che il Sole, appena nato, aveva scagliato attorno a sé. Mentre il disco ruotava, alcuni frammenti di polvere si sono uniti a formare degli ammassi tondeggianti. Questi, aggregandosi fra loro, hanno generato gli asteroidi, i quali si sono uniti in agglomerati più grandi, dando vita ai pianeti. Si è trattato di un processo violento, ad alte temperature. E una volta finito, la Terra non era che un luogo sterile e desolato. Ma dopo qualche centinaio di milioni di anni, la Terra era ricoperta di oceani e la vita prosperava. Da dove può essere venuto tutto questo? C'è solo un'evidente fonte di acqua e molecole organiche nel Sistema Solare: le comete. Ma per spiegare come la Terra, da un ammasso sterile, sia diventata il pianeta blu, gli astronomi hanno dovuto ipotizzare il verificarsi di una tempesta di comete 3,8 miliardi di anni fa. Tempesta che hanno definito l'ultimo grande bombardamento. Alan Fitzsimmons, della Queen's University di Belfast. Il Sistema Solare non era come lo vediamo oggi. Al suo interno vagava molto materiale di scarto che non era stato usato nella formazione dei pianeti. E Giove e gli altri giganti gassosi si davano un gran da fare a scagliare questi detriti contro il Sole, alcuni dei quali sfortunatamente finivano sulla Terra, o dovrei dire fortunatamente se hanno portato l'acqua sul nostro pianeta. È affascinante pensare che tutta l'acqua e le molecole organiche che costituiscono ogni forma di vita sul pianeta possano essersi originate su una cometa, al di là dei confini del Sistema Solare. Le comete sono state cruciali per l'evoluzione della vita sulla Terra e tuttavia conservano ancora la capacità di distruggerla. Sembra che i nostri antenati abbiano sempre avuto ragione. Le comete hanno davvero in sé il potere degli dèi. Forse è per questo che provocano ancora così tanta eccitazione quando appaiono nel cielo. Inoltre, quando gli astronomi puntano i loro telescopi verso nuove stelle, vedono nuvole di polvere, il segno rivelatore dell'attività cometaria. Come le comete hanno contribuito a portare la vita nel nostro sistema solare, potrebbero fare lo stesso altrove. Forse è proprio questo il prossimo messaggio che le comete ci porteranno. Che non siamo soli. Vi segnaliamo che oggi alle 21 potrete vedere su History Channel il documentario dal titolo Alla ricerca dell'anello mancante, un'indagine sugli studi che hanno portato gli scienziati a scoprire la nostra discendenza dai primati. Radio Doc si chiude qui e vi dà appuntamento a domenica sera alle 21.30.